La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Tra le prime foto ricordo l'incontro con Frank Zappa, un musicista che mi è sempre stato molto caro, e io ero veramente agli inizi di tutto, sia dell'attività di fotografo che di quella di giornalista, e mi ricordo che il primo consiglio che mi diede fu: se vuoi fare amicizia con un musicista, non intervistarlo. Mi invitò a spegnere il mio registratore, però non mi invitò a riporre la macchina fotografica, e quindi a quel punto ho avuto un'indicazione molto chiara sul mio futuro. I am gross and perverted. I'm obsessed and deranged. I have existed for years, but very little has changed. Inizia così, quasi per caso, la storia di Guido Arari, che diventerà uno dei più grandi fotografi italiani, l'uomo che ha immortalato di fatto il rock, un mondo scomparso e che resta nella nostra memoria grazie anche alle sue foto. E dunque ben ritrovate La prima volta, indirizzo email per scriverci, laprimavolta@radio24.it. Stiamo parlando quindi di Guido Arari e della fotografia e del rock. Sotto la lente di Arari sono passati Frank Zappa, Fabrizio De André, Neil Young, John Coltrane, Queen, Rem, Lou Reed, Patti Smith e ancora altri, tantissimi, quasi un'infinità di rock star. È esistita, racconta Arari, un'età dell'oro del rock, un tempo in cui gli artisti saltavano sul palco senza filtri, inventando gesti simbolici che segnavano un'intera epoca, un'era in cui i manager non censuravano le foto. Nel 56 una foto come questa nell'America puritana certo rompe molti schemi. Gli artisti all'epoca neanche i loro manager censuravano le immagini. Janis Joplin si offriva ai fotografi mostrando la sua malinconia, la sua deriva psicologica, e queste sono le foto che l'hanno consegnata alla storia, cose assolutamente non più proponibili oggi. Una storia, quella di Guido Arari, che ne contiene dunque centinaia, una storia che ha un inizio, una sua prima volta, e che andremo proprio a scoprire in questa intervista. Ma ogni fotografia è diversa nella sua preparazione, che è sempre tanta, insomma, nel senso che mi documento molto sui soggetti che vado a fotografare. Non parlo solo ovviamente dei musicisti, ma in generale. E è un po' nel viaggio visivo che mi immagino, cercando un po' in un primo tempo di sgomberare il mio immaginario da tutto quello che ho già visto, e quindi cercando di non ripetere, di non cadere nel già detto, nel già visto, e lasciando una finestra aperta per la sorpresa, insomma, per un po' di improvvisazione che inevitabilmente tocca fare quando si ha anche poco tempo a disposizione con un personaggio. Ecco, in quel tempo io cerco di capire, di afferrare qualcosa che magari non conosco e che mi appare all'improvviso, per riuscire a spostarmi verso qualcosa di diverso, una lettura diversa. Quindi molte foto mie sono veramente inventate sui due piedi. Quanto poi all'intimità, per quello che riguarda i musicisti, io ovviamente sono un fan, sono nato fan quando ero piccolo e continuo a rimanere fan ancora adesso, e rimane sempre altissima la mia curiosità nel cercare di scoprire la persona dietro al personaggio. Quindi mi pongo nei loro confronti in questo modo, usando la macchina fotografica come un ideale passepartout. La fotografia e la musica vanno d'accordo, secondo lei, più che non ad esempio la musica e il video? Allora, prima del video arriva la fotografia, sì. Ovviamente. La fotografia e la musica sono due arti complementari. Credo che la musica non esisterebbe senza la fotografia, nel senso che se lei pensa ai jazzisti degli anni 40-50 o al primo rock degli anni 60-70, è difficile oggi ascoltare quei dischi, parlo, non so, di Charlie Parker piuttosto che di Jimi Hendrix, senza avere negli occhi certe ambientazioni, i locali fumosi del jazz, quei completi di taglio dubbio, doppio petto, gessati, oppure Hendrix vestito come un pavone, con una serie di elementi, di look, si direbbe oggi, che per l'epoca erano rivoluzionari. Ecco, la fotografia ha potuto restituire un altro aspetto importante della musica, soprattutto di quegli anni, mi riferisco fino agli anni 70, primi 80, cioè ha restituito la vita. Quelle erano fotografie che raccontavano gli artisti, raccontavano le persone, prima ancora degli artisti. Poi è tutto cambiato. Lei ha citato il video, quindi effettivamente negli anni 80, quando si è affermata la cultura del video, si è perso questo elemento di autenticità e si è entrato in un'epoca di confezione. E però devo dire che i suoi scatti restano qualcosa di eccelso, incredibile, imbattuto, insomma, anche rispetto ai video che poi ci siamo abituati a vedere. C'è stata un'emozione che si ricorda quando, non so, è andato a fotografare un cantante o una persona che amava particolarmente? Beh, l'emozione c'è sempre stata, perché trovarsi davanti un oggetto del proprio affetto in carne ed ossa è sempre qualcosa di emozionante, che sia uno scrittore, uno scienziato o un musicista, non fa differenza. E l'emozione è quel trovarsi nello stesso metro quadrato per pochi minuti o magari anche per una giornata intera e poter così annusare l'altro, osservarlo, cercare di capire qualcosa di lui. Come mai ha scelto la foto rispetto al testo e cosa le dà di più la foto rispetto al testo scritto? Ma io ho sempre amato tutte e due, quando ero piccolo, mio padre non era un fotografo professionista, però aveva un gusto molto particolare nel tirar fuori la macchina fotografica nei momenti importanti della vita della nostra famiglia. Era proprio il piacere di cogliere con una macchina neanche semplice. Oggi si fanno le foto con i cellulari, all'epoca era una macchina a soffietto con pellicola di grande formato, quindi qualcosa di abbastanza ingombrante, e amava cogliere questi momenti. Quindi ho pensato subito che ci fosse un mezzo a disposizione per fermare il tempo, per fermare la memoria, e la musica è stata una passione che mi ha preso fin da bambino. Io sono cresciuto negli anni 50 e quindi rock and roll mi ha investito in pieno e non mi sono mai più ripreso. Era un momento in cui la musica, c'era un'identificazione generazionale fra i musicisti di quell'epoca e il pubblico. Avevano tutti più o meno la stessa età, ovviamente con grandi differenze, ma insomma diciamo che il pubblico che ha lanciato il rock and roll e poi i Beatles e gli Stones era un pubblico che aveva la stessa età dei musicisti, quindi c'era un'identificazione totale, e la musica, quella musica in particolare, è stata, soprattutto per un ragazzino che cresceva in Italia, una specie di scuola. Insomma, diciamo che di Beat Generation o di Rainbow o di Andy Warhol non ho certo sentito parlare per la prima volta a scuola. Mi è tutto arrivato attraverso i dischi di Bob Dylan, di Lou Reed e di tanti altri. E quindi, diciamo, la sua è stata una giovinezza consumata in questa generazione, assieme, attraverso la musica, attraverso la ricerca, appunto, anche uno sguardo oltre, che l'ha spinta forse anche ad andare giovane a fotografare artisti stranieri, perché lei di fatto l'affermazione non l'ha avuta in Italia, l'ha avuta prima all'estero. In verità io ho sempre amato molto la musica americana, anche se i miei gusti sono sempre stati molto eclettici. Diciamo, avendo amato subito i Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Rolling Stones, così ovviamente la mia attenzione era rivolta più all'Inghilterra e all'America. Sono stato molto precoce su questo fronte, quello dell'amore per la musica e il desiderio di saltare, insomma, il fossato, insomma, di non rimanere semplicemente un fan. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container con Massimo De Donato. La prima volta. Io la mia prima intervista l'ho fatta a 12 anni. L'ho fatta ai Rocks, che erano un gruppo abbastanza in voga nella metà degli anni 60, nel 1965, dopo aver visto i Beatles al Vigorelli di Milano. Durante le vacanze estive ho visto i manifesti di questo concerto che i Rocks tenevano in una discoteca e mi sono presentato bello bello a 12 anni con un foglio di carta e una penna e ho detto: voglio farvi un'intervista. E questo è stato il mio battesimo, diciamo, da giornalista. Invece come fotografo l'ho preso un pochino più alla lontana. Ho cominciato, all'epoca non c'erano videoregistratori o DVD o altro per registrare in video la musica, e quindi avevo cominciato a fotografare i programmi musicali alla televisione, cioè fotografando proprio il televisore, e senza ovviamente possibilità di fermare l'istante, e quindi mi sono anche educato a capire la gestualità dei musicisti molto prima di avere la possibilità di andare a fotografarli in concerto. Così Guido Arari, che nel tempo ha poi conosciuto e fotografato i più grandi miti della musica, di lui Lou Reed ha detto: sono sempre felice di farmi fotografare da Guido, so che le sue saranno immagini musicali, piene di poesia e di sentimento. Nei primi anni 70 Arari aveva avviato la duplice professione di fotografo e di giornalista musicale, come avete sentito anche nel piccolo estratto che vi abbiamo fatto sentire a inizio di questa seconda parte della prima volta. Poi lentamente però la parola ha lasciato spazio alla fotografia e il successo è stato mondiale. Arari ha firmato un'infinità di copertine di dischi, da Kate Bush, Paolo Conte, Pino Daniele, Bob Dylan, Ligabue, Paul McCartney, la PFM, Lou Reed, Vasco Rossi, Simple Minds e Frank Zappa. Di Fabrizio De André è stato uno dei fotografi personali, con una collaborazione ventennale, e dunque questa è una prima volta che inizia in un'era lontana, quei favolosi anni 60, della quale Arari appare nostalgico. Io non ho mai fatto grandi ragionamenti o grandi pianificazioni. Io sapevo da ragazzino che quello era, come dire, un vulcano di idee, di stimoli, la musica intendo, in divenire, e volevo esserne parte in qualche modo, volevo condividere questa cosa sentendomi parte di una specie di ideale famiglia, ecco, che parlava la stessa lingua, che parlava quasi in maniera telepatica su tanti argomenti che ci stavano a cuore, e questo ho fatto senza grandi, come dicevo, ragionamenti. È stato facile, ecco, in quegli anni era molto facile avvicinare De André o Bob Marley o Lou Reed o Frank Zappa. Non c'erano tanti convenevoli, non c'erano manager che si mettevano di mezzo o altro. Era proprio, si viveva una passione. Bastava avere i capelli lunghi, essere vestiti di jeans e ficcarsi nella hall di un albergo, perché l'artista che arrivava per un concerto in città, vedendoti, ti si avvicinasse spontaneamente e cominciasse a parlare. È successo tante volte, senza ufficialità. Oggi ovviamente è impensabile tutto questo. Potrei anche azzardare che oggi non c'è nessuna musica da documentare. Nel momento in cui la musica ha smesso di lasciarsi guardare nella sua autenticità, ma è diventata confezione, di fatto ha finito di esistere. Oggi la musica non rappresenta una generazione, ci sono delle schegge più o meno commerciali, più o meno effimere, che si piantano qui e là, ma non c'è quell'onda che ricordo negli anni 60 e 70. Direi che l'ultima grande onda è stata quella del punk negli anni 70, dopodiché non c'è stato più niente, la musica non ha più rappresentato nulla. E lei oggi, c'è cioè, questo vuoto, come lo racconterebbe nelle fotografie? Ma lo racconto vuoto, in verità da una quindicina d'anni mi sono dedicato soprattutto a libri e mostre, e nel senso che proprio all'inizio degli anni 2000 ho sentito che era finito un periodo e avevo bisogno di tornare alla parola, o comunque avevo bisogno di tornare a dei progetti che non fossero correre in giro per il mondo a inseguire le cosiddette celebrities, ma avevo bisogno di fissare e approfondire gli argomenti che mi stavano a cuore attraverso i libri. Io ho cominciato a realizzare una serie di libri, ho cominciato con diversi libri su Fabrizio De André, su Gaber, Mia Martini e poi anche Pasolini, un artista, ecco, l'unico che non ho conosciuto personalmente, ma mi sono, tra virgolette, inventato un libro molto particolare su di lui proprio per conoscerlo, proprio per approfondirlo. E è un libro che ho realizzato in tutta ufficialità con Graziella Chiarcossi, la nipote ed erede di Pasolini, quindi mettendo mano al suo archivio. Sono libri questi che in verità sono delle ideali autobiografie, perché ho messo mano non solo ad archivi fotografici, ma proprio agli archivi, ai manoscritti, ai diari, agli appunti, le interviste, registrazioni di interviste, e quindi ho ricreato in prima persona delle ideali autobiografie. Questo è stato per Gaber, è stato per De André, è stato anche con Fernanda Pivano. Nel 2004 avevamo fatto un libro insieme, si chiamava The Big Goes On, una bellissima avventura. Ecco, diciamo che questo è stato il mio modo di cominciare a fare un altro tipo di fotografia senza macchine fotografiche, e poi questo ha portato anche 5-6 anni fa all'apertura di una galleria fotografica qui ad Alba che si chiama Wall of Sound Gallery, dove l'intento è stato quello di storicizzare il percorso di vari fotografi, non solo italiani ma anche internazionali, quindi abbiamo realizzato diverse mostre. Poi Wall of Sound è diventata anche una casa editrice, quindi prima abbiamo cominciato con i cataloghi delle mostre e poi con dei volumi in tiratura limitata di pregio, in uscita adesso a novembre avremo un libro su Bruce Springsteen con le foto di Frank Stefanko, che è stato per 40 anni uno dei suoi fotografi personali. Ecco, come vede, la fotografia continua ma in forme diverse e con linguaggi diversi. E poi c'è stata anche la sua mostra invece, no? Monografica con tutte le sue foto, che ha avuto un grande successo, se ne è molto parlato. Wall of Sound 10 è una mostra che presto sarà allo spazio Don Chisciotte di Torino dal 26 ottobre fino a Natale, raccoglie 40 anni di ritratti, festeggia anche il decimo anniversario di un'altra grande mostra che si chiama appunto Wall of Sound, che ebbe luogo sempre a Monforte d'Alba nel 2007, ed è una carrellata appunto attraverso 40 anni di fotografie. Il pubblico come reagisce? Diciamo che c'è una reazione di identificazione con i soggetti, o perché i visitatori conoscono già alcune di queste immagini, o perché comunque ritrovano una fetta della propria vita rappresentata su una stampa fotografica, e quindi c'è sempre un transfer emozionale fortissimo. Io credo che la fotografia musicale, nella fattispecie, non sia una fotografia valutabile in termini artistici assoluti, è qualcosa che al di là del gusto, al di là dell'espressione artistica, lavora molto sull'emotività, sull'emozionalità delle persone. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è sempre domenica, sempre alle 23. Venite a sentire le nostre puntate andando sul sito di Radio 24, cercate La prima volta, potete scriverci all'indirizzo mail laprimavolta@radio24.it, pagina Facebook Radio24-La prima volta. Buona serata a tutti e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli. Quanta domenica fanno giù, capelli nevo nevo vestio, o a madama testo, belli che festo, belli in che festa, ti ti aprevo a processione, Teresina tu Teresun, ti ta mia effigie di Dio, capelli da low, e sto luciate che scede te tim, che fa musciato anche ci pecin, mamma mamma da me parla che vegio una casin, ci sta dentro in tassi te, ci è già fuggi che tante re, che dice quello che non pianti, desideri a sabo deline di. A Chamberlin, ci sta Berlin, a fugge pesce ne sciacano, in caignano se de terza mano, e in punte gelo che mostra un lugeo. A Chamberlin, ci sta Berlin, a fugge pesce ne sciacano, in caignano se de terza mano, e in punte gelo che mostra un lugeo. Sciappa riposo don low, beh non fa vedere quello è contento, con me meo va finanziamento, non si confondi ta confusione, con le giopinte indignazione, e uga cria del re, paga se sei a guerra ste. Che spraggia brevo, manco c'è un naso che avevi di nuovo, brito galuscio nel portone di Cristo, non è l'unico che se ne ha visto, che in mezzo a quelle creature, che se guagnano panda nue, aghe anche te moge. A Chamberlin, si sa de lì, a fugge che c'è de sciacanus, in caignano se de terza man, e punte gelo che mostra un lugeo. A Chamberlin, si sa de lì, a fugge che c'è de sciacanus, in caignano se de terza man, e punte gelo che mostra un lugeo.